comparire una scaletta a pioli metallica che portava su. Quindi sempre all'interno dell'abitazione, mentre non c'erano altre vie di comunicazione o di fuga? Non c'erano altre vie di fuga, no. E avete capito dai segnali, dalle tracce, da quanto tempo si nascondeva in quel preciso bunker? Penso comunque da molto. La sua grande conoscenza dei meccanismi e degli equilibri della camorra e del clan dei Casalesi, che cosa le fa dire, le cosa le fa immaginare a questo punto, a proposito proprio, diciamo, della situazione e degli equilibri all'interno del clan dei Casalesi? Il clan dei Casalesi è radicato sul territorio attraverso una organizzazione piuttosto stabile, che si forma anche con livelli intermedi. I livelli intermedi finiscono poi per individuare coloro che seguono il ruolo del capo e che finiscono per assumerne le funzioni nel momento in cui questi viene tratto in arresto. È comunque un meccanismo collaudato, per cui, come non ci sono stati dei grossi sconvolgimenti con l'arresto di Francesco Schiavone, con l'arresto di Antonio Iovine, così penso non ce ne saranno con l'arresto di Michele Zagaria. È evidente però che viene meno un riferimento, che era la persona a nome della quale, per esempio, si andavano a eseguire le estorsioni. Michele Zagaria era diventato il simbolo dell'intoccabilità, della inafferrabilità, anche della potenza del clan. Chiaro che con il suo arresto, secondo me, ci saranno anche dei, come dire, ritorni positivi, se così si può dire, nel senso che anche la popolazione comincerà almeno adesso ad avere maggiore fiducia. Anche se dopo la cattura, insieme alla prevalente dimostrazione di giubilo e di festeggiamenti da parte della gente, oltre che ovviamente di tutte le forze dell'ordine per la cattura avvenuta, ci sono state anche, diciamo, segnali in vario modo di disappunto delle persone del posto, delle persone di Casa Pesenna. Michele Zagaria era lì in quella casa, evidentemente perché godeva di una rete di copertura che solo quella sistemazione gli poteva dare. Mi pare naturale che fra le persone con le quali si nascondeva o tra le quali si nascondeva, certamente c'è stato un disappunto. Ne hanno avuto quantomeno una perdita economica con il suo arresto. Nella seconda parte di A Ciascuno il Suo frughiamo tra gli oggetti ritrovati nel bunker del superlatitante, a cominciare da quei libri di Raffaele Cantone che sentiremo tra poco. A Ciascuno il Suo. Nessuna spavalderia, ma soprattutto silenzio. Per 16 anni Michele Zagaria è stato soprattutto un nome, quello del superboss dei Casalesi, sempre più imprendibile, ma di lui si avevano pochissime vecchie immagini, qualche intercettazione e soprattutto aneddoti, come quello che lo voleva innamorato di una tigre che accarezzava mentre discuteva di affari sporchi. E proprio con quella nuvola di silenzio il re dei Casalesi ha costruito il suo potere, la sua ricchezza, e da lì mandava minacce a giornalisti e magistrati contro cui progettava anche attentati. Mi dovete dare atto però che le cose brutte che sono state scritte io poi non le ho fatte, avrebbe detto agli inquirenti una volta catturato. Lui li teneva d'occhio anche nelle loro pubblicazioni. Così nel suo bunker super tecnologico di Capa Pesenna c'erano anche tre libri, uno di un giornalista del Mattino, Gigi Fiore, e due saggi di Raffaele Cantone, già PM della DDA di Napoli, ora in Cassazione. Lui che per anni l'ha inseguito, ma che non si aspettava, ci racconta, di avere anche il superboss tra i suoi lettori. Non me l'aspettavo, ma non mi meraviglia più di tanto, perché non è la prima volta che boss di questo livello dimostrano di essere informati di quello che avviene intorno a loro, quindi non mi meraviglia più di tanto. Come lei diceva, non è il primo, molti altri grandi boss avevano nei propri bunker libri di magistrati o di giornalisti che si occupano delle loro vicende, diciamo così. Che vuol dire? Perché i boss hanno, guarda, i libri di chi scrive di malavita? Io credo che prima di tutto sia sempre un momento di autocelebrazione, poi io credo che c'è l'aspetto dell'informazione, perché loro hanno moltissima paura e timore che al di là della scoperta dei reati vengano scoperte le trame, cioè quello che c'è dietro la loro attività. È vero anche che un personaggio come Zagaria era arrivato anche a minacciare chiunque, compresi i giornalisti ad esempio. In un'intercettazione lui infatti minacciava anche un giornalista. Zagaria è molto mafioso, Zagaria ha una formazione culturale di tipo mafioso, loro utilizzano la minaccia in modo a volte molto subdolo, il tentativo di intimidire i giornalisti, il tentativo di intimidire uomini delle istituzioni, sia anche un modo subdolo sempre per affermare il proprio potere, anche all'interno del clan, dimostrare che lui è la persona che tiene le danze. E in questo Michele Zagaria era molto leader, io credo che avesse anche una forte considerazione di se stesso che lo portava a ritenersi il dominus assoluto di quello, tutto quello che avveniva nella camorra casertana. Per tanti anni lei stesso ha partecipato alle indagini per la cattura di Michele Zagaria, che è arrivata anni dopo. Secondo lei, al di là delle indagini, è cambiato qualcosa, diciamo, in questi anni che a un certo punto ha reso possibile poi questa cattura anche all'interno del territorio e si è creata una crepa che ha portato più facilmente all'arresto del boss? Io credo che questa sia un po' come una partita di pugilato. Prima del colpo di knockdown si lavora ai fianchi, e negli ultimi anni si è lavorato molto, molto ai fianchi. Fatto terra bruciata intorno, si è eliminato tutto un sistema di fiancheggiamento, si è intervenuto sul danaro, perché il danaro è fondamentale per tenere la latitanza, e quindi si sono create le condizioni per far cadere l'ultimo latitante. E poi credo che nel territorio, malgrado quello che ho visto anche in televisione, le interviste prese a Casa Pesena, c'è però una diversa sensibilità. Io credo di aver ricevuto messaggi, telefonate, il numero incredibile anche di persone che mi conoscevano così, perché volevano in qualche modo dire a qualcuno che erano felici di questo momento. E questo è un segnale molto, molto, molto importante. Ha sentito anche Saviano? Ci siamo scritti. Che cosa vi siete detti? Ci siamo detti che eravamo contenti e che era un passaggio in qualche modo epocale. Io credo che si mette la parola fine al clan dei Casalesi, quello che è nato nell'88 dopo la morte di Barbellino. Tutto quello che sarà dopo, non credo che significa liberazione del territorio, comunque sarà diverso. Capastorta, questo il nomignolo del capo della camorra casertana, era stato condannato già nel maxi processo Spartacus a scrivere la sentenza di primo grado il giudice Raffaello Maggi. Si chiude una partita, diciamo, iniziata nel 1995, quindi ben 16 anni fa. In quel momento Michele Zagaria aveva un'importanza sicuramente notevole all'interno dell'organizzazione, perché era l'uomo cerniera tra i vari gruppi dell'organizzazione, in particolare tra il gruppo Bidognetti e il gruppo Schiavone. Uomo cerniera perché era capace non solo di sparare, ma anche di investire le risorse economiche, soprattutto nel settore del calcestruzzo, del cemento. Ovviamente noi lo abbiamo condannato per concorso in omicidio, perché era stato anche un killer. Da quel momento, dal 1995 ad oggi, i 16 anni trascorsi in una lunghissima latitanza chiaramente ne hanno poi enormemente accresciuto l'importanza, perché è riuscito a sfruttare, diciamo, l'arresto degli altri capi storici e a creare intorno a sé una rete, diciamo, fittissima di relazioni, e quindi chiaramente è diventato, diciamo, il numero uno nel corso del tempo. Il suo soprannome è Capastorta, perché? Credo che questo derivi un po' da una conformazione, diciamo, fisica, insomma, i soprannomi spesso hanno questa origine. Lui è sempre stato molto abile e molto intelligente. Pensate che negli ultimi tempi i pentiti che hanno parlato di lui non sapevano dire dove si trovasse, perché anche le persone più vicine a lui venivano accompagnate all'interno di autovetture, diciamo, schermate, per non far vedere lui dove si trovava. Quindi non si fidava quasi